E quindi iniziamo questa nuova puntata di Gira la Palla. Iniziamo questo hip hop autoprodotto praticamente che abbiamo appena beccato sulla rete, e oggi parleremo di un paio di questioni al volo, un paio di argomenti che hanno preso sicuramente le prime pagine dei rotocalchi sportivi, ma non solo. C'è stato molto da discutere, chiaramente stiamo parlando del gesto di Daniel Alves nella partita del Barça, Villarreal Barça, che durante il calcio d'angolo, quando gli è stata tirata una banana, ha giustamente risposto prendendo quella banana e mangiandola. Quindi è stato un gesto sicuramente forte da un certo punto di vista, peraltro è stato sicuramente un gesto di marketing. Noi magari vedremo come la pensiamo, e poi qualche altra notizia sfiziosa su qualche personaggio minore che ha fatto la storia del calcio popolare. Parliamo di Dario Hübner, poi ritorneremo in Spagna anche per quanto riguarda il Rayo Vallecano, che sta regalando una fantastica stagione ai propri tifosi, tra l'altro con un bomber che è ben conosciuto anche qui in Italia, che è l'Arrivé, che giocava nel Cagliari, che sembrerebbe abbia trovato la sua giusta dimensione in quel di Valleca. E va bene, quindi proseguiamo e con un altro po' di musica per iniziare qui con Radio Default e Gira la Palla. Les eaux craquent et l'esprit s'évade dans les eaux crades d'une douleur vague. Ailleurs, la puissance renaît, danse du yin et du yang, Satan te rend la monnaie. Funambule libre en équilibre sur le fil du temps, pantomime du bateau ivre, l'air hostile se tend. Le feu dans nos poumons, des pleurs coulent des flammes. Combat avec le démon et tu anges ou chétane. Parmi nous chantent les morts, ni oubli ni pardon, dans nos cœurs résonne encore. Parmi nous chantent les morts, ni oubli ni pardon, dans nos cœurs résonnent encore. Les poings serrés, le regard droit face au mur des fédérés, l'espoir à froid. Amis, entends-tu leurs pas lourds sur nos rêves? Un jour nos rires se sont tus, c'était la fin de la trêve. Vous n'aurez pas la rue, même à la pointe du glaive, vous n'êtes que ce qui fut, comme un turfu qui crève. Dans un monde où les héros perdent, prend le temps d'être en paix. Parmi nous chantent les morts. Ni oubli, ni pardon, dans nos cœurs résonne encore. Le pouvoir vous fascine, nous, nous nous en moquons. De l'âme de l'homme, il est l'abîme sur la proie, l'ombre du faucon. Genre, origine, religion, tout est prétexte à vos discriminations. Ici, c'est pas le pari des paillettes, représente l'antifa action. Sous Souviens-toi Madrid 2007 dans cette rame de métro. 11 novembre, date où tomba Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud. Quatre camarades plantés. E allora, eccoci qui, gira la palla. Oggi è il primo venerdì del mese, per cui cominciate ad appuntarvi questo appuntamento ormai mensile con qui a Radio Default. E come vi dicevamo nell'introduzione, oggi sicuramente non potevamo non parlarvi anche noi di quel gesto infame che c'è stato nella partita Villarreal-Barcellona, che ha visto protagonista Daniel Alves, che mentre calciava praticamente un calcio d'angolo ha ricevuto dai tifosi avversari praticamente un lancio di banana. Sì, avete capito bene, lui per tutta risposta ha preso quella banana e l'ha mangiata. Molti poi sono stati i dibattiti che si sono aperti su questo gesto, perché immediatamente è stato postato su internet, quindi ha girato un po' su tutti i vari circuiti della rete, provocando sicuramente simpatia e sdegno allo stesso tempo. Quindi molti sono stati anche altri personaggi del mondo dello sport che hanno manifestato anche loro la disapprovazione verso queste forme di intolleranza, che purtroppo tra l'altro non è il primo episodio chiaramente che è successo in ambito calcistico, tra l'altro, soprattutto. E niente, praticamente molti poi hanno anche intravisto un'operazione di marketing, quindi un qualcosa di tutto già ben orchestrato, organizzato, anche perché poi è diventato anche il simbolo, praticamente una sorta di manifesto del prossimo mondiale di calcio in Brasile, e dove sappiamo bene che praticamente in Brasile non è che la situazione è tanto facile rispetto proprio a un consenso dell'opinione pubblica rispetto a questa grande kermesse calcistica mondiale, che da giugno vedrà sicuramente incollati sugli schermi qualche milione di telespettatori, ahi noi. E comunque, al di là di questo, magari ecco, trovare un gesto che gli dia un'immagine buona, sana di questo mondiale, forse magari, no? Ecco, questa mangiata di banana in campo magari potrebbe un po' risollevare l'immagine di questo mondiale, che finora ha raccolto soltanto forti contestazioni, come tra l'altro è giusto che sia. Però ecco, magari queste sono state le prime battute, poi magari adesso vi leggiamo pure qualche altra cosa di più specifico, e poi magari ognuno di noi cerchiamo di vedere un po' quello che c'è dietro e quello che purtroppo ogni tanto viene nascosto o strumentalizzato all'interno degli stati. Je suis coupable de mon innocence. Ok, ok, coupable d'éloquence. Coupable d'être moi-même et voir là où ça mène. D'ignorer leur morale, de quitter le bocal. En effet, je suis coupable de ne pas me sentir coupable. J'ai fait l'ordre établi, c'est loin d'être une boutade. Collabo et facho, mes potos veulent votre peau. Vous traqueront sans repos jusqu'au fond de vos bourgades. Gloire aux camarades, tous les autres peuvent crever. Pourquoi je suis coupable, moi ça me pousse à me lever. Écrire la vérité, veiller sur les miens. Une larme pour les défunts dans chacun de nos revers. Juger coupable, c'est-à-dire peu rentable. Ça veut dire épuisement, tant physique que mental. Ça veut dire en tout cas aux côtés de mes semblables. En toutes circonstances, pour l'autodéfense des 100 grades. Procès, vas-y, faut pas te gêner. Tous mes maîtres à penser un jour furent enchaînés. Mais qui veut m'effrayer? Oui, ils peuvent essayer. Tant qu'on sera défrayé, je vois pas ce qui peut me freiner. Ouais, je plaide coupable. Ça coule dans mes artères, hein, comme un alcool fort qui m'asserre. Yeah, c'est même imprimé sur ma chair. Je plaide coupable, frère. J'suis toujours prêt pour la guerre. Lève coupable comme des esclaves sur un bateau. Une tête de mort sur le drapeau. Lève coupable, voilà qui branche le serrato. On vise la tête des collabos. Lève coupable dans une France bourgeoise et catho. Je suis un extrémiste, c'est pas faux. Plaide coupable parce qu'on veut pendre tous les fachos. Première ligne, c'est comme ça, remix pour la femme. Collabo et facho, mes potos veulent votre peau. Vous craquerons sans repos jusqu'au fond de vos bourgades. Gloire aux camarades, tous les autres peuvent crever. Première ligne, c'est comme ça. C'est comme ça, remix pour la femme. Première ligne, c'est comme ça. C'est comme ça, remix pour la femme. E quindi torniamo qui in studio, Daniel Alves, come dicevamo, e ora un po' tutti sono delle scimmie, praticamente con un hashtag, praticamente We Are All Monkeys, che c'è questa campagna di sostegno praticamente a quello che è accaduto a Dani Alves, ricordiamo terzino brasiliano del Barcellona, e quindi molti sono stati gli attestati di stima, anzi di solidarietà, quindi da Neymar che è stato uno dei primi praticamente, a poi a tutta un'altra serie di altri calciatori. Qui vediamo pure Chadli e Dembélé del Tottenham praticamente, e chiaramente Roberto Carlos, che lui, anche lui purtroppo in Russia fu purtroppo per lui protagonista di un gesto analogo, e quindi molti sono stati fortunatamente le reazioni in positivo praticamente su quanto accaduto. Noi sappiamo bene che prima abbiamo ricordato il caso praticamente di Roberto Carlos quando giocava in Russia, e sicuramente non fu un bel vedere, c'era ben alta tensione comunque su quel campo, e diciamo che non ci fu la stessa prontezza che invece Dani Alves ha dimostrato in quest'altra situazione. Poi per tornare invece sulle situazioni di casa nostra, abbiamo visto anche durante la partita praticamente che era una partita amichevole del Milan con la Pro Patria, dove Boateng decise all'ennesimo bu di lasciare il campo, e anche lì un po' i ben pensanti e gli ipocriti hanno fatto una sollevazione di scudi, parlando chiaramente dell'opportunità o meno di questo giocatore di fare questo gesto. La cosa che a noi ci è subito venuta in mente è che un gesto del genere è stato possibile purtroppo soltanto perché la partita del caso era chiaramente una partita amichevole. Probabilmente se c'erano ben altri diritti televisivi in ballo, molto probabilmente la sospensione della partita non ci sarebbe stata. Questo per quanto ci riguarda probabilmente è una certezza, ma crediamo che anche rispetto al problema razzismo c'è stata una sottovalutazione, e che comunque, come possiamo dire, non è che il campo di calcio che racchiude tutti i razzisti. Diciamo che è da qualche tempo a questa parte che un po' le campagne di informazione, soprattutto informative o quantomeno a volte anche le campagne sulla sicurezza che vengono poi lanciate nelle nostre città, poi se portano a dei rigurgiti razzisti che guarda caso poi negli stadi poi si manifestano nelle forme peggiori, poi chiaramente tutti a lamentarsi, no? Poi ecco, quindi forse una riflessione su quello che succede sui campi di calcio forse dovrebbe essere veramente fatta, ma una riflessione seria che non porti soltanto alle solite richiami a aspetti repressivi, quindi vederla soltanto con la lente di ingrandimento di un'azione di tipo repressivo, mentre invece probabilmente la riflessione da fare un po' a tutto tondo, e qualcuno se dovrebbe, no, perché poi gli stessi i primi opinionisti che si scagliano magari, no, in televisione contro i razzisti dicendo sono loro che vanno puniti immediatamente, chiusi nelle gabbie, bla bla bla, tutte queste robe qua, e poi magari alla prima uscita, diciamo, contro gli immigrati, pure loro, diciamo, non è che si risparmiano. E quindi, ecco, magari veramente una riflessione seria, perché il razzismo è una cosa seria, va combattuto, lo sport, il calcio può fare molto in questo ambito. Molti sono i giocatori impegnati su questo fronte, magari con meno pubblicità di quella che fortunatamente Dani Alves ha potuto avere, se non altro perché gioca in uno dei più grandi club d'Europa. Ce ne sono tanti altri di calciatori che chiaramente hanno avuto a che fare con lotta al razzismo. Uno su tutti, uno dei primi che ha manifestato la propria disapprovazione per fenomeni di questo tipo, ricordo Lilian Thuram, anche rispetto a quello che dichiarava Sarkozy durante le sommosse delle balie parigine. Ecco, io credo che messaggi di questo tipo, fortunatamente nel calcio ce ne sono ancora purtroppo delle piccole voci isolate. Lilian Thuram, tra l'altro, comunque prosegue la sua attività di iniziativa all'interno dei quartieri da cui proviene, tra l'altro, quindi anche da quello che nasceva, diciamo, la contestazione a quanto affermava all'epoca Sarkozy. Ma Thuram aveva anche ha avuto anche una capacità effettivamente di segnalare e di circoscrivere un problema come quello del razzismo, ma anche rispetto a una serie di politiche sociali che purtroppo in Francia vengono attuate, e proprio le balliene sono a testimonianza di questo, di queste forme di ghettizzazione. E per cui, ecco, anche diciamo la Spagna, ma io credo che un po' ormai è una questione europea, visto che poi di ricurgiti razzisti e fenomeni di nuovi nazionalismi ne stanno cominciando a prendere piede. E quindi, ecco, oggi sicuramente invece di campagne che stanno cercando di fronteggiare fenomeni di questo tipo non è che sono molte, ce ne sono, però si può fare sicuramente di più. Oggi, forse anche perché ci sono i cosiddetti campionati di calcio, i campionati mondiali di calcio, quindi si cerca anche di utilizzare, di strumentalizzare forse questo gesto, quanto accaduto, anche per ridare diciamo così, un maquillage al prossimo mondiale del Brasile, che, ricordiamolo, non è che ha tutti i favori di casa, perché sono molte le problematiche che oggi si vivono in Brasile, e molto il sacrificio che devono subire le classi meno abbienti, quindi la gente che vive nelle favelas, molto il prezzo che dovranno pagare loro per tutti i grandi lavori che stanno facendo in Brasile, e quindi tante risorse spese probabilmente per impianti che non serviranno a nulla e che saranno soltanto dei costi sociali ulteriori per la collettività. E invece, ecco, le problematiche vengono poi lasciate a se stesse, magari anche lì gestite soltanto con le forze dell'ordine, la repressione. Ricordiamo purtroppo ultimamente degli episodi pessimi accaduti nelle favelas brasiliane, con la polizia che ha assassinato un ballerino e da cui ne ha conseguito una rivolta popolare. Quindi sicuramente in Brasile problematiche, tra l'altro anche legate alle condizioni, diciamo così, che si intrecciano anche con le questioni del razzismo anche in Brasile, le questioni poi legate alle favelas e a chi ha meno diritti, purtroppo. E per cui, ecco, magari questa trovata di Daniel Alves un po' può aiutare un immaginario, a recuperare un immaginario in positivo di quel mondiale. Sicuramente noi non crediamo che bisogna tenere un po' gli occhi aperti su questo, e invece riuscire magari, ecco, a sfruttare questo episodio invece per lanciare una serie riflessione tra sport, razzismo e calcio. Ψηλάφετο κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα δέρτια για να βγουν σ' αυτή την κόρυφη που όλους περιμένει αρκεί. Να μην τα κλείσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους, περιμένω και σιγάνε φοβηθούν. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή. E riprendiamo qui sempre dagli studi di Radio Default, parliamo di un giocatore dai connotati fortemente popolari, perché non si può dire che è stato uno di quei bomber ultra pagati, e tra l'altro è arrivato nel calcio professionistico molto tardi. Lui si chiama Dario Hubner, per molti era il bisonte del gol, Tatanka Hubner. Ha giocato per diverse squadre, ma per lo più provinciali, quindi ha fatto la fortuna di giocatori di fantacalcio, ma anche di squadre minori. E vi leggiamo questo articolo, chiaramente ripreso da Baluardi del Calcio Popolare, un blog tra i tanti che ogni tanto ci piace andare a spulciare, e andiamo a leggervi questo articolo di qualche mesetto fa. I numeri parlano chiaro: 335 gol sparsi per tutte le serie, promozione, prima categoria, eccellenza interregionale, serie C1, C2, serie B e serie A. Dovunque giochi e con chiunque giochi, lui è il bisonte del gol, la insacca sempre e quanto gli piace farlo. La sua carriera è fatta di gavetta, serietà, famiglia, grappa e sigarette. Dario Hubner era una persona semplice, normale, uno che non si monta la testa per aver fatto 24 gol in Serie A, per essere stato capocannoniere con David Trezeguet, pur avendo giocato una partita in meno del francese. Un abituato anche al lavoro, uno che durante la settimana montava in fissi e faceva il carpentiere prima di andare al campo d'allenamento. Hubner giocava nei dilettanti del Royal Fiore fino a qualche anno fa, coltiva l'orto di casa, insalata, pomodori affini, tutta roba naturale senza integratori. Hubner è un fisico naturale coi capelli ricci e il pizzetto, si vede che non ha mai preso robe chimiche, punture ed integratori come gli strisciati di turno. Il suo intelletto naturale, puro e coltivato con la passione e la buona volontà. La sua è una rivoluzione silenziosa, da lavoratore, da chi si alza tutti i giorni alle 6 del mattino per andare a lavorare nell'azienda di famiglia, si fa il culo dalla mattina alla sera e torna a casa contento per quello che ha fatto. È la rivoluzione di chi rimane se stesso nonostante intorno siano tutti allori e glorie, glorie che non gli vengono riconosciute, perché nonostante segni ovunque vada a giocare, con non militerà mai in una grande squadra, ma neanche in squadre di seconda fascia, lotterà quasi sempre per la salvezza o per salire in Serie A. È l'intervallo, la partita è sullo 0-0, in campo fa un discreto freddo. Hubner rientra negli spogliatoi, si avvicina al suo borsone e la sua giacca appesa al suo posto, si accende una sigaretta, dopo averla finita un goccio di grappa e via in campo. Tatanka segna, dopo una sgroppata da bisonte e la insacca, la sua squadra vince. Lui festeggia ed è contento, i suoi compagni di squadra sono la sua famiglia, in quel momento la semplicità gliela gioia, gliela legge negli occhi. Chi lo prese a fantacalcio nel 2001-2002 ancora va in giro raccontando del migliore affare della storia del fantacalcio. Hubner, preso a meno di un terzo di Trezeguet, che fa gli stessi gol del francese. Un bomber popolare per il calcio provinciale, ambasciatore dei valori del calcio e della gioia che porta questo sport. Un baluardo del calcio soprannominato Tatanka, un bomber che andrebbe ricordato per sempre in maniera semplice. Ogni volta che un bambino segna dovrebbe sapere che è esistito un bomber di nome Dario Hubner, che è amato ed ama quell'oggetto sferico alla follia e che gode a vederlo alle spalle del portiere. La naturalezza con cui lo fa dovrebbe essere mostrata in tutte le scuole di calcio. I suoi gol spesso sembrano semplici, ma è lui che li rende tali. Hubner adesso allena i ragazzi del Royal Fiore, che erano i suoi compagni di squadra fino all'anno scorso. Siamo sicuri che riuscirà a trasmettergli l'amore per il pallone e i valori veri e popolari del calcio. Gli insegnerà che i soldi non sono tutti e che fare il calciatore e fare gol è il mestiere più bello e rivoluzionario del mondo. Corri Tatanka, corri, vogliamo rivederti in Serie A, magari da allenatore. Ça sent le souffre pendant les élections, il s'engouffre dans la brèche, crée le doute dans la tête des foules. Ce manège dégoûte, mais c'est pourtant la même. À chaque fois, je sens plus la déception. Le flow est lent pour que tu comprennes. C'est pas un bon texte qui fera bouger le contexte. Concrètement, je sais pas ce qu'il faut pour nous unifier. Continue à te justifier en attendant que la bombe pète. Ils veulent nous foutre dehors, nettoyer les taudis. Je suis rom, homo et gauchiste, juste pour leur foutre le mort. Je vois que des foules de porcs et des rappeurs conspi, manient clichés et poncifs, puis changent de route de bord. Ils veulent nous foutre dehors, nettoyer les taudis. Je suis rom, homo et gauchiste, juste pour leur foutre le mort. Je vois que des foules de porcs et des rappeurs conspi, manient clichés et poncifs. Une odeur nauséabonde flotte dans les airs, que du love dans mes verres. Pendant que les tarés abondent, on peut plus laver la front. Ces bâtards espèrent que la tombe pour mes frères, ou bien des années à l'ombre. La haine se répand comme les bactéries. Y'a plus de honte, bientôt les plus cons sont des archétypes. Stratégie, marketing, théorie, passéiste. Même si c'est pas crédible, la peur t'engraine assez vite. Tu crois lutter pour tes impôts, récupérer ta avalée. La bise des fachos décomplexés, ils sont pires que des nymphos. Change de position à chaque titre des infos. Moi je rêve de scalp à la Aldo Range. J'ai des tas de projets pour les lancer. Prima di arrivare in chiusura praticamente di questa nostra puntata, vi diamo un aggiornamento di una delle nostre squadre preferite che ci piace seguire, il Rayo Vallecano, perché veramente quest'anno sta facendo un ottimissimo campionato. Oggi ormai si trova in nona posizione. Vi abbiamo parlato un po' di quella che è stata la sua storia, la sua provenienza, la sua estrazione, quindi il quartiere popolare di Vallecca, operai disoccupati che quest'anno fortunatamente stanno prendendo delle belle rivincite anche con squadre ben più attrezzate della loro. E vi dicevamo anche in partenza di questa puntata che sicuramente la rivelazione di quest'anno è questo bomber Larrivei, che avevamo già visto con la maglia rossoblu del Cagliari qui in Italia, che però non è che abbia lasciato buoni ricordi. Sembrerebbe che invece lì dalle parti di Madrid stia veramente facendo una stagione straordinaria. Credo che già abbia superato la decina di gol, tra l'altro ha risegnato anche nell'ultima giornata. Infatti il Rayo è andato a vincere a Granada con un secco 3-0 con i gol di Saul Larrivei appunto e Seba Fernandez. Quindi quest'anno grandi soddisfazioni dal nostro Rayo Vallecano, sicuramente continueremo anche a seguirlo nelle nostre puntate qui di Gira la Palla. E oggi vi lasciamo qui con ancora con un po' di musica autoprodotta. Qui abbiamo Engagé, anzi Arashta Face, che sono dei rapper francesi, e per cui ecco, vi lasciamo sicuramente con un pensiero ai tifosi del Benfica, con cui ieri sera abbiamo condiviso una gioia insieme, proprio per questi juventini che sicuramente, insomma, non è che ci rimangono tanto simpatici. Ma a parte le battute, comunque questo è quanto, quindi ricordatevi, Gira la Palla, l'appuntamento su Calcio e Dintorni di Radio Default ogni primo venerdì del mese, e per cui ecco, continuate a ascoltare e diffondere radiodefault.it. ciao. Solidaire, la rage au cœur, au faf on promet l'enfer. On compte nos morts, la vérité c'est dur. Malgré tout notre envie de lutter perdure. Le temps s'arrête net, tombé pour la cause. Y'a ceux qui se battent et ceux qui se contentent d'être moroses. On lâche rien mec, c'est plus qu'une chanson. Un style de vie, de courage, un passage à l'action. Sur les traces et les pas de ceux partis trop tôt. L'avenir appartient à ceux qui luttent depuis le berceau. Aux anonymes martyrs, sans justice et hommage. Aux quartiers populaires, à la révolte et la rage. C'est douloureux, c'est dur, mais on tient bon. C'est pour les poteaux sur le terre-terre qui tiennent debout. Convergence, solidarité, respect, humilité, fierté, réciprocité. Antifa immigré, culture métissée. Lutte des classes, point et drapeau noir hissé. Ça fait mal au cœur de perdre un petit frère. Et dans ce cas-là tu te demandes quoi faire. Continuer la lutte, ne pas regarder derrière. Lever les poings, défoncer les barrières. Du mépris pour ceux qui grattent et récupèrent. La mémoire, la force d'un combat salutaire. Tous unis, déterminés et solidaires. La rage au cœur, au faf on promet l'enfer. L'alerte est rouge et noire ma gueule. Et sois sûr que le combat ne se mène pas seul. Après les larmes, le linceul et le cercueil. Après la tristesse, l'émotion, la colère et le deuil. Supporte le vide, la douleur et l'absence. Et ne compte pas sur la bienveillance de la France. Ce souvenir apprivoiser la mort. Entre les médias dominants et le mépris des porcs. Quel meilleur hommage que de continuer la lutte. À chaque fois que l'on relève la tête, on touche au but. Les sourires, la joie, la détermination. Le besoin viscéral, l'envie de révolution. Ça fait mal au cœur de perdre un petit frère. Et dans ce cas-là, tu te demandes quoi faire. Continuer la lutte, ne pas regarder derrière. Lever les poings, défoncer les barrières. Du mépris pour ceux qui grattent et récupèrent. La mémoire, la force d'un combat salutaire. Tous unis, déterminés et solidaires. La rage au cœur, au faf on promet l'enfer.